Vedi sta sigla verrà mancata, ditelo ragazzi, eh. C'era mancata moltissimo. C'era mancata questa sigla. Benvenuti a tutti qui su runtimeradio.it. Io sono Simone Pizzi, con me c'è Michele De Paola. E salve, salve a tutti. Volevo iniziare con una canzone a caso di Sanremo, però dai, no. No, no, no, no. C'è Caro Sant'Agostino. Io non lo sento. Carlo, ti si è abbassato il volume in maniera spaventosa, non so perché. Si è abbassato il volume. Sì, te ne sei andato praticamente. Così, a caso. A caso, sì. Ti sentiamo proprio bassissimo, in un modo che più basso non si può. Così adesso? Ecco, perfetto. Adesso sei perfetto. Che cazzo è successo? Chi lo sa, chi può dirlo. Mangiando cioccolata seduto in un locale. Ah, ok, ok. Chi? Dai, Michela, non prosegui? No. No, non la so. Non ho colto. Mangiando cioccolata seduto in un locale mi coglie la vertigine sociale. Ah, è vero, scusa, non me l'ho imparata a memoria, quindi non... Male. è l'evento dell'anno proprio. L'evento la rappresentante dell'anno. Di lista ci ha praticamente rubato il cuore a tutti. Infatti, intanto salutiamo tutti coloro che ci ascoltano in diretta qui su runtimeradio.it. Nessuno per ora. Piano piano arriveranno e noi dobbiamo fare sempre finta che c'è qualcuno che ci ascolta, che è la cosa più importante. Okay. E di che si parla questa sera? Di chi si parlerà? Di Sanremo. Dai, che bello, non vedevo l'ora. Perché parliamo di Sanremo? Perché? Noi parliamo di Sanremo perché abbiamo una mission che è quella di farci praticamente ospitare come radio ufficiale dell'Eurovision Contest 2022. Un giorno ci riusciremo, non sarà il 2022, ma un giorno in un futuro ci riusciremo. Comunque ci proviamo con questa Road to Eurovision, che questa è la prima puntata e ce ne saranno moltissime altre. È vero? Beh, molte, però insomma io ho un'idea di farne diverse prima di arrivare all'Eurovision, cioè okay, cercando anche di spiegare cosa succede anche negli altri paesi, perché insomma noi adesso partiamo da Sanremo ma cioè, sappiamo anche che succede in un paese molto vicino a noi e dopo ne parleremo. Appunto, vedi. Ne parleremo, magari ascoltiamo prima il primo brano, così ne parliamo subito. Io partirei dal brano che ha vinto, pensa Michela, tu che ne dici? Come dal brano che ha vinto? Li ascoltiamo tutti interi o li No, che tutti interi, sono 24 brani, stavo qua fino a domani. Ma tu mi hai detto che la scaletta dei brani era in ordine alfabetico, esatto. Io stavo a partire da Achille Lauro. Ah, ok, allora... Ma hai detto tu! Allora partiamo da Achille Lauro, vabbè, sempre non ti sta mai bene un cazzo, diciamoci la verità. Ma mi dici una cosa, poi ne fai un'altra. Aghillone, nostro bello di casa. Aghillone, abbiamo scoperto che è della Lazio. È come i cani che si annusano. Sì. Oppure i gatti che girano al porto. Negli occhi è rock and roll. Sembra ti tocchino. Oh my god, città peccaminosa. Tu quando possiamo entrare? Sì, tranquillo. Comunque, volevo dire una cosa sulle canzoni di Achille Lauro. Che sono tutte uguali, brava, stavo dicendo proprio esattamente. Però si caricano una cifra. Correggiamo leggermente, non è che sono tutte uguali. Un po' s'assomigliano. Questa in particolare è uguale a quella che ha portato 2 anni fa a Sanremo. Perché prendi Rolls Royce. Però non, è vero, non sono tutte uguali. Cioè, io che sono una. Ci sono alcune che sono più uguali degli altri. Nel senso che ascolto Achille Lauro perché poi alla fine mi sta sempre molto simpatico e c'ho questo ascendente su di me perché mi piace troppo. Ti piace. Vabbè, e quindi, anch'io lo ascolto e devo dire che non sono tutti uguali. Ci sono anche delle canzoni belle, è bellissimo. Ci sono anche delle canzoni belle. Questa cazzo non poteva farla, dai. Cioè, no. È troppo un plagio di se stesso. Cioè, sì. Ha fatto Rolls Royce e ha fatto questo. Ci sono anche quasi le stesse parole, rock and roll dentro. Cioè. Ma poi comunque la cosa più bella che c'è stata è l'esibizione del piccolo coro gospel di quelle cinque donne bellissime che si è portato dietro sempre ad ogni esibizione. No, finalmente qualcuno che ha portato la gnocca, perché sennò sì, qua questi tempi. Bellissime e bravissime, ma soprattutto la serata cover, perché la serata cover comunque lì l'abbiamo, cioè io comunque l'ho detto, Achille io ti amo, perché lui ha cantato in coppia con Loredana Bertè. E si è medesimato nell'uomo che praticamente non sapeva dire altro che sei bellissima, chiedendo scusa a Loredana e anche a Mia Martini simbolicamente per come sono state trattate in passato molte volte. Vabbè, insomma, quindi è stato un gesto molto bello. Quindi andiamo un pelo pietoso su sta cosa, perché no, discorso un po' troppo lungo, sì, sì, è un discorso lungo, però è banalizzante, comunque insomma, è un discorso importante, importante un messaggio, e secondo me un gesto molto importante. Sono d'accordo. Stendiamo un pelo veloso. Veloso. Io però partirei. C'era Achille Lauro con le vocalist. Gianluca Mattei ha visto le vocalist che c'avevano loro, perché capisco, insomma. Io un po' però mi soffermerei, mentre che parte il secondo brano che ci ascoltiamo, che l'ultima cosa ci siamo dimenticati, che Achille si è battezzato, il Papa si è arrabbiato. Ok. Un'altra cosa importante, se vogliamo parlare di Achille Lauro, è che è candidato all'Eurovision con San Marino. Ma mo ci arriviamo a quello, mo ci arriviamo. Però diciamo una cosa. Anche a Achille Lauro, però sì. Allora, insieme ad altri. Perfetta così. H7. Fammi vedere l'immagine del ragazzo. 77. Come fai a vedere l'immagine del ragazzo? No, così la vedo da qua. Io voglio, di questa canzone, voglio un parere di Simone Pizzi sulla qualità di questa canzone. Ma guarda, io devo dire una cosa, volevo infatti parlare un attimo in generale su questo Sanremo, che non ho visto, premesso. Però l'ho trascoltato, perché come fai a non ascoltarlo con Michela che se lo guarda? Prima di tutto è stato che se lo guarda un festival di Sanremo molto progressista, diciamo, su certi aspetti. Un po' progressista, cioè nel senso che è stato un Sanremo attento, diciamo, alle varie differenze, insomma, sì, diciamo molto meno chiuso rispetto al conservatorismo tradizionale. È stato un Sanremo moderno, finalmente. E allo stesso tempo, esatto, la qualità media dei brani, anche tecnica, diciamo, abbastanza scadente. Ma volutamente. Sono d'accordo con te. Abbastanza scadente. Volutamente. Non ho capito se Carlo è d'accordo o no. Sì, sì, è d'accordo. Sì, d'accordo. Sì. Ah, anzi, d'accordo. Direi anche peggio. Direi di merda proprio la qualità media. E guarda, che questa non è manco la peggiore, onestamente. Ma, però non so, l'unica cosa è che io fino all'ultimo ho aspettato Ivan Jurgant, che però non è arrivato. No, c'è deluso per la seconda volta consecutiva. Ma secondo me alla Rai. È Amadeus che non l'ha fatto. No, Amadeus, per me è la Rai. Sì, è la Rai. È colpa di Amadeus. Amadeus non capisce. Poi non capisce. Devi considerare che adesso in questo momento i rapporti con la Russia sono un po' complicati, perché noi siamo la NATO. Tu sei contenta di essere la NATO? Io non sono mai stato contento, lo dico così proprio. Poi voi fate come mi pare. E vabbè. Facciamo l'embargo. Esatto. Poi c'è sta una certa Anna Mena, che non so se è una donna. Anna Mena è veramente, cioè, la canzone neomelodica, cioè dei neomelodici, quelli che ameranno. Ma è italiana sta Anna Mena? È una cantante spagnola. Spagnola, immaginate. Spagnola, sì, è spagnola. Che però sembrerebbe che a Napoli hanno apprezzato tantissimo sta canzone. A me già come inizia. Oh, questa è Ciao 2020 pure questa, Sì, assolutamente. Un po' Ciao 2020, un po' il posto delle cerimonie. Cioè, la cosa bella è che noi Ciao 2020 non l'abbiamo voluto a Sanremo, però abbiamo praticamente fatto il plagio di quella che è la satira su di noi, capito? Cioè, Esatto, confermo. Ma una roba quest'anno, tu i casi imbarazzante, secondo me, sono quelle canzoni. Oh, questa è, cioè, se la sentivi a Ciao 2021 era uguale, eh? Cioè, sì, nel senso, sì, ma certo. Ma poi sì, cioè, che cos'è? Puncia. Uccia, pa. Va bene, bella canzone, complimenti. Ma facciamo un attimo una disamina. Vai con la disamina. Abbasso un pochino, che tanto fa schifo. No? Quindi... sulla canzone dal boss delle cerimonie, da Ciao 2020. Okay, sì. Che poi il boss delle cerimonie sembra avere proprio apprezzato questa canzone. Ma è morto, l'ha anche non è pubblicato morto su Twitter. Cerimonie. Non so chi per lui, insomma. Uh-huh. Le vicissitudini delle serate di Sanremo sono state diverse. E la prima sera è stata praticamente aperta da una Ornella Muti, praticamente bella, di plastica, bella, bella, stupenda, bella, bellissima. Sarà pure di plastica, però è sempre stata la donna più bella del mondo. Sì, e lì siamo d'accordo tutti. E super pomposa. E te ti è piaciuta, Carlo? Chi? Ornella Muti. Chi? De plastica, sì. Era De bella. Plastica. Era bellissima. Beh, era bella, infatti io non l'ho vista. Nello specifico non l'ho vista. Guarda, no, io purtroppo c'ho un difetto, ragazzi, che a me quando io vedo la plastica, cioè che si rifanno le... si tirano e si gonfiano, che diventano, sì, diventano dei mostri poi. Che poi, beh, scusa, e poi meglio Ornella Muti. Se invecchia normale, so, io sono d'accordo con te, assolutamente al 100%, però sempre meglio Ornella Muti, che ci avrà 75 anni. Quanto ci avrà? Che il cantante di 30 anni, il cantante di 25 anni che va a Sanremo rifatto. Lì, ragazzi, stiamo. Siamo a livello di neuropsichiatria, insomma, no? Sì, ma lì sì, siamo, però anche a non accettare di invecchiare per me è una cosa che... perché poi c'hanno tutte la stessa faccia, diventano tutti uguali. Uguali, no? Tipo, sì, sì, beh, certo. Con le due guanciotte lì, e vabbè, lascia stare, va. Okay. Vai, Michela. E invece la sera dopo hanno voluto praticamente fare una cosa tipo noi siamo progressisti e facciamo e hanno invitato praticamente sta Lorena Cesarini, che è un'attrice comunque di italiana, comunque di etnia. Attenzione, cambia il sound, scusa Michela, e poi tietela. Mi piace la musica. Questo è fantastico, io lo amo. Tergent amico. Questa la dobbiamo far ascoltare, dai. Vedo qui la radio cassa dritta. Sì. Questa è radio cassa dritta, cassa. Però pure qua comunque il testo c'è un po' di impegno. Anche se non ci sei più. Ma qui vado io a Sanremo, cazzo. Infatti, sì. Se non sogno senza live con il file sul divano. Vabbè, dai, comunque no, questa. No, faccela ascoltare, faccela ascoltare. Ok, ascoltare. Ok, scus. Sono d'accordo. Quindi dove andiamo? Dove si balla? Ascoltate il testo. Ma io mi vergognerei. No, però posso, ah no, qui devo intervenire. Scusa Mary, Ascoltare il testo. Scusa, vabbè, poi ci ascolteremo. Scusa Mary, intervengo. A me questa canzone non dispiace. A me piace un sacco. Perché mi ricorda Francesco Tricarico. Sì, infatti il testo non è così malvagio, cioè. Francesco Tricarico, al quale io sono molto affezionato. È molto stridente. Tricarico piace anche a me, ma questo non c'entra un cazzo, secondo me. Così. Beh, no, la melodia del ritornello è molto Tricarico, sì, dai, sì. Comunque, belle saltate sul divano mentre cantava D'Argento Amico, assolutamente, dai, cioè. Ma io voglio sapere perché questo si chiama Le orecchie, perché adesso state ascoltando la versione incisa, ma quando lo sentivate dal vivo, vabbè, quella è un'altra storia. Vabbè, ma però pure un grande professionista, cantante da 150 anni come si chiama lì? Massimo Ranieri. Sì, anche lui l'ha scazzata, però vabbè, la sera dopo l'ha fatta giusto. Ma questo si chiama Dargen? Dargen d'amico. Vabbè, comunque, che stavi dicendo della progressista lì? Quella delle cieche, la seconda puntata, poi vabbè, sono andati sempre peggio, perché a parte a parte Drusilla Fuer, che praticamente mitica, è stata bravissima, stupenda, l'unica salvata veramente, e la Ferillona nazionale, che è stata super, è stata veramente bella, bella e brava, e che comunque ha sbroccato alla fine e un paio di mortacci tuoi sono volati dietro le quinte. Strano, di solito è così raffinata. E non solo, perché comunque sa che Amadeus l'aveva fatta arrabbiare parecchio, tant'è che è scoppiato il Ferilli Gate, ancora non si capisce bene che cosa è successo. E sono intervenute durante le varie serate Lorena Cesarini, e questa attrice italiana di colore, che per carità, bellissima cosa, mette l'attrice italiana di colore, ma un monologo che faceva pena, cioè letto non lo so, praticamente il razzismo spiegato ai bambini, proprio una cosa di quelle che ti fanno cascare il latte alle ginocchia. E lei il razzismo non sapeva... non siamo noi, siamo razzisti, sono loro che sono negri, questo è... No. No, perché mi hanno detto che sono nera, allora io mi sono messa a piangere. Cioè, per carità, io non voglio essere, voi lo sapete, io per me questi temi sono importanti. Scusa, questo è importante. Però La rettore. Ecco, questa è una di quelle che si è salvata. Dito della piaga, alias Dito, vuole essere chiamata anche Dito. E non c'è dove pure quando, solo fango ed un impianto travolgente. Ma si e sente la tua esperienza. Sì, beh, vabbè. Ma c'è. Grande. Anche se devo dire che tutte le voci, nelle versioni incise, tutte le voci, anche quelle dei professionisti, sono tutte super effettate, tutte. Sì, è vero. Vabbè, ma la rettore di solito c'aveva questo effetto nei suoi sì, album. Sì, ma in generale se le ascolti tutte le canzoni, anche da quelli che insomma ti aspetta, alla fine che è il ragazzino, i Popparo. Allora, comunque ragazzi, ce n'è uno veramente terribile. Vabbè, quello, dopo lo sentiamo. Quello lo che sentiamo. Si chiama tutto strano, Orco. Comunque posso finire questo concetto, così andiamo avanti. Vai, prego, scusa. Devo riprendere un'altra volta. Vabbè, ti incazzavo però, stai calma. Comunque volevo dire che questa Lorena Cesarini ha fatto veramente una magra figura a Sanremo. È stata veramente una scelta bruttissima, cioè perché non sapeva leggere, non sapeva recitare, non sapeva presentare, cioè veramente non... Amadeus, la prossima volta te prego ascolta meglio. Qualcuno insomma. Guarda, io devo dire la oltre cosa che te stesso, l'unico pezzo che ho visto era quella dell'attrice che ha dovuto recitare, sì, la diva non vedente, sì, e no, ha fatto parlare posso dire una cosa? Allora, voi lo sapete che questo in qualche maniera, in maniera indiretta, insomma, è una cosa che a me... Io non ho mai sentito tanta banalità, sì, tutta intrinsa in un momento Maria solo. Maria Chiara Giannetta dovrebbe essere, che praticamente ha fatto, lei ha raccontato la vita di questi ipovedenti e non vedenti. E non ha fatti parlare poi. Li ha messi sul palco e non li ha fatti parlare. Esatto. Ha parlato lei per loro. Esatto. Ma che cos'è sta cosa? Tra l'altro dicendo alla gente, perché io, cioè raccontandoci che lei si è immedesimata tantissimo, talmente tanto, che ha passato le giornate praticamente bendate per vivere come un non vedente, cioè, e quindi lei sa che cosa significa questa cosa. Certo, c'è una differenza sostanziale che dopo tu quando ti sei rotto il cazzo te levi le bende. Esatto. È come quando vai a fare l'esperienza che l'ho fatta anch'io, quella del andare a mangiare nel posto tutto buio dove sì. Il tempo poi alla fine proprio non ci sono. Questa è Elisa. Solamente il cielo quando si bella. Questa è la canzone, se non altro. Sì, molto bella. Forse sei tu, ti capirei se non dicessi neanche una parola. Mi basterebbe un solo sguardo per immaginare il mare blu e niente di più. Sempre con te sarò tra le luci. bisogna dire che oggettivamente questa è una canzone bellissima. Poi a me non, non piace molto. Possiamo anche continuare a ascoltarla. No, se, ecco, se dobbiamo trovare un difetto di quello che ha presentato Elisa a Sanremo, è che ha presentato un brano da Elisa, cioè sì, esatto. Non ha presentato niente di meno, niente di più di quello che ci si aspetta da lei. Quindi non è che ti ha entusiasmato come dire che figata. Sì, è una bella canzone, cantata bene, è una cosa che ti aspetti da lei. Perché secondo me il ragionamento è stato: in mezzo a sta merda, se faccio un'opera conservativa, diciamo, faccio comunque una bella figura. Beh, in effetti è arrivata seconda, quindi ci sta. Sì, sì, infatti, anche se poi dopo arriviamo anche insomma al vincitore, che poi tra l'altro secondo me era un po' chiamato, no? Diciamo, un certo. No, vabbè, ma era chiaro che avrebbero vinto loro. Lo sapevano due anni prima che vinceva lui. Appunto, sì, dico, insomma. Sì. Che cazzo? Ma poi c'è da dire molto sui vincitori, che poi diremo quando li ascolteremo. Però comunque hanno segnato un momento importante, quindi poi lo vedremo. Perché probabilmente il podio lo meritava veramente Elisa. Lo meritava la rappresentante, no, di lista, per me lo meritava la rappresentante. Vabbè, di lista, perché voi siete de parte. Io oggettivamente pure quella canzone è una canzone da TikTok, mo diciamoci la verità. Dovete ascoltare i testi delle canzoni. No, c'ha ragione, in questo caso do ragione a Michela. Il testo della canzone della rappresentante di lista, se lo ascolti, capisci che non è quello che ti aspetti. Infatti. Un po' come il rumore della carrazza. Sì. Tu pensi che dica rumore perché far casino, invece è tutt'altro testo. E qua il concetto è uguale. Tra l'altro, parlando della carrazza, io l'omaggio che hanno fatto alla Carrà ho pianto. Lasciamo perdere. Ho pianto, veramente. Per la Carrà, ho pianto. Se ci penso ancora, c'è la pelle d'oca, perché è stato veramente. Quindi vuol dire che a te ti è piaciuto e a lui no. Questo non è no. Non ti è piaciuto? Invece no, a me mi è piaciuto molto. O forse mi ha solo commosso il fatto che. Beh, sì, magari poi tu ti fai molto trasportare, diciamo, sì, no? Dalle situazioni, quindi diciamo che c'hai abbastanza l'emozione facile, diciamo così, insomma. Comunque, bello, bella Elisa, bella, bellissima, vestita come un angelo. Volevo finire sulla questione, poi ne parliamo, insomma, del rappresentante di lista, e che forse viene rovinata dai social la canzone, perché quello sì, sentendo in continuazione solo il ritornello, è una canzone da TikTok, diventa, capito? Stiamo ascoltando. Se senti solo il ritornello, sì. Stanotte. Eccola, Emma. Emma. Vabbè, Emma è Emma anche lei. Emma, anche sì. È Emma. Emma è Emma. E tra l'altro ha portato la Michelin come direttrice d'orchestra. Quindi, insomma, questo è stato un gesto molto Michelin importante. Ma una cantante, che si è brava, prestata a fare la direttrice d'orchestra. Ma io abbasso perché pensavo che la volate fa sentire un pochino, però vai. Cioè, avete proprio la sede spianata sta canzone. Vai, vai. Perché non ci è piaciuta. Forse. Ah, ok. Vabbè, ma diciamo che è una canzone da Emma, e quindi Emma, esatto, non è proprio musica che io ascolto. Quindi, ma idem, vabbè, anche diciamo per che me, non è cioè, che è Emma, c'è cioè, chi piace. Diciamo che lei almeno sa cantare, su sì, questo è fuori di dubbio. Però non è una canzone che mi piace, ma non mi piace in generale le canzoni di Emma anche a me. Quindi non sono d'accordo con te, Michele. Tra l'altro poi c'è stato un certo Davide Maggio che ci ha avuto da ridire sulle sue calze a rete, e io ho pensato una cosa, che sto Davide Maggio, vedendolo mentre parlava così guardando, ho pensato che gli sarebbe piaciuto arrivarci alle calze a rete di Emma Marrone, ma purtroppo c'è chi può e chi non può, perché veramente mille volte le calze a rete, che becerume, ma che becerume le calze a rete di Emma Marrone e le cosce, perché diceva che c'aveva le cosce troppo grosse, se quelle sono cosce grosse, è arrivato, cioè, lui è arrivato, vabbè, va bene però Emma è una grande e ha saputo rispondere a modo suo. Tra l'altro anche vestiti bellissimi comunque gli hanno messo durante, vabbè, quello però a Sanremo è un po' e la cover, una circostanza. La cover è stata molto apprezzata di Emma, che ha cantato, questa volta ha cantato con Francesca Michelin invece di farla sì, dirigere nella cover, e ha cantato una canzone di Britney, di Britney sì, Spears, bellissima, Oops I Did It Again, che abbiamo amato tutti, veramente è stata standing ovation, no, ma poi l'ha perché fatta veramente bene, sì, sì. Quello mi è piaciuto anche a me, veramente. grande omaggio anche a Britney Spears, che negli ultimi mesi, anni della sua vita, insomma, ha combattuto abbastanza. Sì, anche se si è ripresa adesso, dai. Si è ripresa, sì. Si è ripresa la sua libertà. E quindi anche omaggio a questo. Boh, ci sarebbe un artista che, dai, tra l'altro, la sua prima apparizione a Sanremo emozionò tutti e allo stesso tempo fu molto criticato, perché quando gli dissero perché hai scelto questa canzone, perché mi sembrava buona per vincere, allora tutti l'hanno un po' accusato, perché dicevano: ah, ma come, allora non l'hai fatto per il sentimento, per il significato, no, quello che voleva dire. Ed è Fabrizio Moro, okay. Lo ricordate Fabrizio Moro, il primo brano di Sanremo, no? Che era la canzone quella sulla mafia, poi fondamentalmente. Non mi avete fatto niente. Beh, però era una bella canzone. Molto bella, però lui se ne uscì un po' con questa affermazione. Fabrizio Moro, che è della Lazio, ricordiamo anche questo. Okay. Va bene. Fabrizio Moro, di cui ieri abbiamo visto il film di cui lui è co-regista. Sentiamo un attimo film. Un pizzichino di canzone che a me lui piace, devo dire. Sì. Mi emoziona come. Le sue ascoltiamole. Sei tu che dai origine a quello che penso. Poi questa è la canzone di Sanremo. La distanza compresa fra me e l'universo. Infatti, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto sei tu. Anche lui che attraversi il mio sa un po' tutti uguali, cioè nel senso è un po' l'effetto Ligabue, no? Quelli che hanno tutti un po' il loro stile, no? Passa attraverso i miei occhi e sei tu che mi inietti nel sangue il desiderio. Allora, infatti io mi domando, siccome ieri sera noi siamo andati a vedere Ghiaccio. Questo bellissimo, bellissimo film. Allora, bellissimo è una parola grossa. Molto bello, molto bello. È un bel film. È un bel film con dei pro e dei contro, come tanti film. Ma è un buon prodotto, dai. Sì, però, cioè, però è fatto bene. Ed è una storia che non marca troppo. E forse, secondo me, questo è anche un bene. E allo stesso tempo, magari, insomma, vuole dare sempre un po' quel senso di speranza, no? Però io mi domando. Dato che questa canzone sta nei titoli di coda, sì, sicuramente l'avranno è una apposta. Violazione. No, si è uscito dopo. No, è uscito dopo. Però tutti quelli che ci hanno lavorato al film sa so bella che sbabbata la canzone. Ma la regola dice in pubblico. Ah, in pubblico, ok. Dice privatamente, la può ascoltare chi. Ok, va bene. No, volevo comunque, solo mettere comunque, un po' di zizzagna. Se dovesse. Purtroppo Ghiaccio, perché probabilmente. Vabbè, c'aveva tanti film indipendenti. C'aveva una produzione indipendente, quindi la distribuzione è stata bassa, nel senso che c'aveva solo 3 giorni di distribuzione. Ma probabilmente avendo fatto così tanto successo, perché comunque ha riscontrato degli incassi molto alti, sì, e soprattutto delle critiche bellissime, probabilmente c'è speranza che torni al cinema prima di essere distribuito nelle varie quasi piattaforme. Sicuramente, secondo me, se dovesse tornare al cinema, io ve lo consiglio assolutamente. In realtà, vabbè, come abbiamo detto più volte, siamo di parte, perché comunque Piscia Sotto, uno dei personaggi di uno dei cattivi della storia, è un nostro sì, grande anche, amico. Sì, anche della Lazio. È della Lazio. E è un nostro grande amico, perché intanto il Milan è sta mio vincendo, grande amico. Perché gioca. Stasera chi gioca? Stasera gioca la Lazio, che sta perdendo con il Milan. Va bene, a posto. Ecco. Ma l'aveva detto Radio Capital che la Lazio avrebbe perso con il Milan, quindi. Occhio. Eccolo, il vincitore morale di Sanremo. A forza di credere che il male passerà, sto passando io e lui resta. Mi devo trascinare presto fuori di qua, dai miei pensieri pigri nella testa. Fare qualcosa, oppormi all'inerzia, alla sua forza, che rammollisce il corpo mio da dentro, mantenendo rigida la scorza. E ogni giorno mi sveglio e provo a dire questo è un giorno nuovo, e se funziona o no, non lo so, forse sì, vai così, vai così, vai così, vai così. Stai andando forte, apri tutte le porte. Allora, posso dire una cosa io su questa di Morandi? Che sì. A me mi ha un pochino destabilizzato, nel senso che sapevo che Morandi, come tutti, veniva a Sanremo, avrebbe partecipato a Sanremo, ma mi aspettavo una canzone di Morandi, sapevo scritta da Jovanotti, mi immaginavo una canzone in stile moderno, ok? Tipo quelle della Orietta Berti che fa adesso, insomma. Vabbè, ma lui, invece, lui è arrivato con una canzone di Morandi, cioè questa sembra una canzone di Morandi. Questa andava a 100 all'ora. Ma la produzione è interamente. E questo mi ha destabilizzato completamente. La produzione è interamente di Jovanotti, in realtà, della canzone. E credo che Morandi non è un autore. No, Jovanotti l'ha studiata proprio per omaggiare comunque il Morandi che tutti conosciamo e che abbiamo tutti amato e che amiamo, insomma. E io ho trovato questa cosa. C'è anche il Morandi Gente di Mare, che non è questo Morandi. Gente di Mare? Sì. Ma Gente di Morandi Mare non è De Morandi. Sì, però il problema di Gianni Morandi è che ha fatto, attraversato diverse fasi, con diverse collaborazioni artistiche e via dicendo. Io su Gianni Morandi, che uno potrebbe dire che palle, Gianni Morandi, ancora Gianni Morandi. Allora, innanzitutto, tanto dei cappelli. Grande. Perché è stato grandissimo. Quanti cazzo anni c'ha Gianni Morandi? Un botto. Cioè, ragazzi, io. Grande. Cioè, veramente un grande. E lo spirito di Gianni Morandi. Tra l'altro, io vidi un documentario di tantissimi anni fa, quando lui ancora giocava alla nazionale cantanti, no? Che fecero praticamente una sorta di gita, insomma, nell'est, a Praga e via dicendo. E loro lo prendevano tutti in giro perché lui era l'ultimo dei comunisti, no? Cioè, nel senso, perché poi lui non ha mai espletato, no? Giustamente, per il tipo di personaggio che è, no? Però poi alla fine era un personaggio che ci credeva a certe cose, insomma. E devo dire, sicuramente tanto di cappello Gianni Morandi. Stima assolutamente. Mi si può dire proprio niente, questa canzone gli rende onore. Se avessi vinto, non mi sarei scandalizzato. E tra l'altro, poi è stato bellissimo perché lui è arrivato terzo, ma al quarto classificato, Irama gli ha chiesto scusa. Gli ha detto: mi dispiace perché ci dovevi essere tu sul vabbè, sul sì, è uno che ha già avuto tutto nella vita. Capito? Lui capiva che. Però è stato veramente bello. È bello anche il duetto con la cover con. Tuo padre, mia madre e Lucia. Questa è una canzone che sembra quasi una tipo un'imprecazione. E Canotta. Corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, sei triste. E Canotta, che prende questo cantante. Fallo sentire un attimo. Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole, si chiederanno come mi chiedo anch'io. Giustamente, quando uno ha sempre cantato in canotta. No, è il canotta però. Non è lui il canotta. Però un signore. Sì, no, è lui. È lui il canotta. Però è venuto sempre in canotta tutte le sere. Sì, è stato fatto notare questa cosa. Anche durante la cover Vinicio Capostella, dove hanno portato un brano di De André. Ma io devo dire, testo di questa canzone molto, molto, molto intenso. E canzone. Tutto sommato, cioè, a me sinceramente mi è piaciuta, però cioè, non è una canzone di Sanremo. Allora, lui si vede, ha portato Faber a De André perché è chiaramente uno sì, che, sì. Cioè, però lo imita male, è una brutta coppia. Ragazzi, ma io lo stavo a sentire l'altro giorno, mi stavo a risentire. Anzi, proprio l'altro giorno, quando abbiamo fatto la live per i miei 50 anni, ho messo una canzone di De André. E dove lo trovi uno con una voce, cioè, dove lo trovi De André? Capito, però sai, cioè, anche se ti piace De André devi trovare un po' la tua connotazione, certo. Esatto, questo sono un po' troppo. Tenta di fare De André, non è capace. Vabbè, comunque lui alla fine in canotta, però c'è, anche se mi devo mettere la giacca, comunque in canotta, giusto Michela? Sì. No, la giacca non se l'è messa mai. Nel frattempo invece è venuto Vinicio Capossella, si è presentato vestito da Garibaldi praticamente. Niente di più e niente di meno, insomma. Giustamente in chat c'è Gianluca che ci dice che non si sarebbe mai aspettato di vedere Vinicio Capossella a Sanremo. Ma mi sembra che sia già venuto Capossella a Sanremo. Non saprei. Vediamo, intanto cerchiamo notizie di Capossella a Sanremo quante volte. Vabbè, e nel frattempo c'è Giusy Ferreri, ce lo sentiamo? Sì. Va. Giusy Ferreri che ascolteranno queste Non hai lasciato niente. È Giusy Ferreri. E qui è la stessa critica che può muovere a Emma e anche lì. Forse ti ho sempre dato la stessa coppia di lei. Resto sveglio e mi chiedo perché piove su questa città. Però che voce, dove tu mi hai voluto. Ma poi è comunque il tormentone di lei con la tromba iniziale. Perché questa notte non corri da me? Ti ho lasciato nel vento una musica. Sì, a parte l'oggettivo problema sulle vocali, che probabilmente è anche voluto. Insomma. Sì, lo fa sempre lei quello. È sempre così. È stata bella perché comunque è veramente una presenza scenica anche visivamente bella e comunque brava, però ha fatto il suo. Il citofono di Sanremo. Il citofono, sì, con sta trombetta, dai, veramente ogni volta che è grande Gianluca. Il citofono. Sì, il difetto. Non avremmo saputo dirlo meglio. Allora, di queste che sanno cantare, che comunque sanno cantare, perché sia Emma Marrone che certo. Lisa che la Giusy Ferreri sanno cantare e che sono arrivate con qualcosa di prevedibile, tra virgolette, cioè che ti sa di già sentito, di sempre uguale, quindi non entusiasmo, almeno questa è la mia sensazione, poi dopo. Vabbè, perché sai, secondo me se si presentano a Sanremo, dice portiamo una canzone che va bene per Sanremo. In realtà sto Sanremo ha un po' scombinato le carte in tavola. Ma questo Sanremo, anche però, se sono diversi anni che ci prova a scombinare. Ma questo, esatto, Sanremo è stato molto partecipato. Molto, però molto visto. Moltissimo poi partecipato. Vero. I cantanti in qualche modo si sono relazionati con il pubblico in un modo mai visto, per un motivo molto importante che stavamo per dimenticare. Il Fanta Sanremo. Cioè, il Fanta Sanremo è stata la cosa più figa che io abbia mai fatto negli ultimi mesi. Ho fatto un macello, ma mi sono divertita un sacco, perché poi praticamente questi artisti avevano le sfide e molti di loro comunque si erano accaniti, soprattutto gli artisti, quindi magari l'artista vestito monocolore o con i fiori addosso o Sai tutte le regole del Fanta Sanremo? Allora, le sapevo, ce l'ho perché io ho partecipato, ovviamente sono arrivata Intanto ti interrompo. Hai ragione, ma non siamo pari, siamo chi animali. È questo? Questo è High Snob con sentir dolore come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno. Che è quello che si è vestito due col pigiama. Che abbi cura di te. Che la Perilli gli ha detto che tu stai venuto col pigiama. E vincere battaglie non mi serve mica, perché questa è una guerra in cui si perde sempre. E io perdo la testa come Oloferne. Dimmi come ti senti. Alla pare che oggi non puoi fare una canzone rap o hip hop. Ah, no, se non c'hai un difetto di pronuncia tipo sono una coppia e lei sembrava molto Sinead O'Connor. Ah, sono quelli con tutti gli orecchini dentro, sì, del naso, dell'orecchio, sì, capito? Belli. Una canzone inutile, diciamo. Esatto. Però vabbè. Tanto ormai. Potete tornare a parlare del Fanta Festival, vai. No, sì, stavo cercando le regole del Fanta Sanremo, perché praticamente te le riassume Carlo, forse. Vai. Ma no, che sono quelle che vi ricordo le più assurde in assoluto, cioè il fatto che ha fatto queste. Allora, innanzitutto chi l'ha inventato è un genio. Io non so chi l'abbia inventato Fanta Sanremo, però veramente un genio, perché ha messo delle regole proprio assurde dove in pratica ai cantanti veniva assegnato un punteggio in più o in meno a seconda di quello che facevano, no? E per prendere dei punti dovevano fare delle robe che alcune da ridere, tipo urlare papalina, salutare zia Mara, salutare zia Mara, ma altre che non potevano fare, tipo veniva dati dei tipo 50 punti se l'artista cagava sul palco, una roba del genere. Poi c'era tipo la Frank Zappa, 200 punti se faceva un salto più alto sul palco di 2,40 m, si doveva superare il record della medaglia olimpionica. Gli davano 100 punti, se non mi ricordo male, o di più, se moriva durante Sanremo. Se si sdraiavano, infatti si sono sdraiati. Altri 500 punti, una roba del genere. Se si fossero sdraiati, infatti alcuni di loro si sono sdraiati. Emma si è fatta inseguire dalla polizia sul serio. Sì, che gli dava punti, esatto. Per farsi comunque poi ovviamente questo ha innescato. Emma poi infatti ha vinto il Fantasanremo. Ha innescato dai fan una gara, le varie fan base dei cantanti incitavano i cantanti a fare le cose perché dicevano: ti ho messo nella mia squadra del Fantasanremo, quindi devi fare questo. Allora sì, tutti i cantanti si sono sentiti praticamente obbligati a vincere anche questo Fantasanremo, cioè a cercare di fare dei punti facendo delle cose magari fattibili, come quella di vestirsi monocolore piuttosto che i fiori, oppure cose come uscire scalzi gli dava dei punti negativi. Che poi siccome tu Lisa come compravi? È uscita scalza e sì, lei non sapeva le regole Fantasanremo. La sera dopo ha dovuto dire papalina perché ha detto che i suoi fan l'hanno chiamata tutti che hanno perso punti perché lei è uscita scalza. È vero. Ha dovuto dire papalina. Cioè, tu pensa? Ma soprattutto chi è che esce scalza? Ma poi soprattutto come compravi le comunque cose? Aspetta. Come acquistavi praticamente con i baudi? Cioè la merce di scambio, la moneta di scambio era il baudo. Cioè, il presentatore. Io non so chi sia Irama. Irama è arrivato qua. Irama è bravo. Allora, a Sanremo e la canzone è molto commovente in realtà, cioè una canzone taremese. Allora parliamoci sopra la canzone. Ma adesso descrive. Ma dopo, ma sfallati un attimo. Se sarai luce scalderai. Ah, è una lagna insomma. Se sarai luna ti vedrò. E se sarai qui non lo saprò. Però Irama ha fatto una cosa molto importante. Nella cover, nella serata delle cover, ha portato Gianluca Grignani. Esatto. Con un grande rispetto, cioè nel senso lui prova un grande rispetto per Grignani. E Grignani perché? che purtroppo non stava al massimo della sua forma. Chi, Grignani? Sì. E quando è mai stato al massimo e quindi è stato molto preso in giro, insomma, veramente, perché la cattiveria poi arriva a questi livelli, ok. Sì. Però ho apprezzato molto il fatto che lui ha portato Grignani, perché tutto sommato Grignani è stato per noi un piccolo simbolo di un'epoca, insomma, degli anni 90. Forse per le autorità, forse sì, vabbè, magari sì. Per me no. Siamo più vecchi noi, però Grignani indubbiamente ha fatto delle canzoni che sono rimaste e che comunque se le ascolti adesso sono ancora molto belle. La sua canzone simbolo, adesso non mi ricordo come si chiama, quella più famosa di Grignani, La storia tra le dita, che l'ha scritta mentre pensava, quando gli hanno chiesto ma perché hai scritto questa canzone, perché pensavo di suicidarmi, nel senso che lo stava pensando sul serio, e lui ha scritto quella canzone perché stava effettivamente pensando al suicidio, quindi è problematico. E poi vabbè, è un artista comunque, devo dire che anch'io ci sono rimasto male per come l'hanno trattato dopo, però è lui è uscito così com'era, fatto non fatto quello che vuoi, quello che è, però è la sua situazione. Irama sicuramente l'ha portato sul palco perché lo stima, e devo dire che Irama a me piace, la canzone di quest'anno devo dire che è una lagna, ha ragione Simone, quella dell'anno scorso secondo me era molto meglio di Irama, però l'anno scorso è stato subissato perché in realtà la qualità, sempre secondo me ovviamente, delle canzoni di Sanremo dell'anno scorso era molto più comunque mediamente qui la roba è scarsa, bisogna dirlo, cioè oggettivamente quest'anno oggettivamente scarsa. Comunque l'altro anno, per esempio, due anni fa, quando era che c'era, come si chiama la cantante con la toscana lì, Irene Grandi, quella che fa delle canzoni rock lesbica, come la si Nannini. Chiama la Nannini. Stava peggio la Nannini, che voi non ve lo ricordate, ma Comunque ragazzi, sì, c'è la nostra idola. Eccola, Liva Nona, Liva Liva. Prenderti per come sei, senza tanta filosofia. C'è la vecchiaia su sta voce. Sì, però... sente la grattugia. Sì. Una noia mortale sta canzone. Vabbè, io vazzo nicchia. Una noia mortale. Ma beh, io vazzo nicchia, non è che sì. Che voce, però si sente che è una voce anziana, eh? Certo. Però sì, in alcuni casi si sente. Almeno intonata, questo. Beh, cazzo, sì, è vero, vabbè. E quindi dicevi che se le cose si compravano in Baudi, ma raccontiamo che tu Carlo l'hai fatto poi sto Fantasanremo? No, io l'ho scoperto, non sapevo troppo neanche tardi, che troppo tardi. Io mi sei scritto in tempo, non avrei mai partecipato, figurati, ma l'ho scoperto solo perché mia figlia, quando è iniziato Sanremo, uno ha detto papalina, io ho detto che cazzo dice papalina, e mia figlia, papà non sai Fantasanremo? Allora ha iniziato a spiegarmi le regole, le cose, i partecipanti, le robe eccetera, e ho detto geni del male proprio. Beh, Michele ha partecipato e come al solito ha fatto la sua sporca, tipo la sua sporca figura, neanche ultima è riuscita ad arrivare. Ma no, ma infatti perché poi dopo ha scoperto che hanno premiato anche l'ultima persona che si è classificata, i primi classificati. Però la mia squadra è arrivata seconda in compenso. Che culo. Ma io no. Ma io no. Però è stato molto divertente anche vedere Iva Zanicchi. Ecco, c'è stato da dire su Iva Zanicchi, mi è venuto in mente con la Drusilla, la figuraccia, sì, che ha fatto quando ma in realtà allora dicevano che inizialmente sembrava che fosse una cosa che lei magari l'ha un po' tipo insultata, però chi ha insultato chi? Perché quando parlate non ve si capisce. Iva Zanicchi, okay, in teoria avrebbe in qualche modo insultato la beh, non mi stupirei, te lo dico. Però sembrerebbe invece che non sia così, che era uno sketch. Allora, io l'ho visto e non è che l'ha insultata, ha detto una cosa che magari voleva fare una battuta, però risultava una battuta di dubbio gusto, perché Iva Zanicchi ha detto a Drusilla: tu hai qualcosa più di me. Come per sottointendere, hai. Vabbè, però pure Drusilla stessa ha fatto battute su se stessa. Sì, lo stesso però Drusilla gli ha risposto: sì, sono colta. Sì, io sono colta, gli ha risposto. Grande! Zerata proprio. Grande, grande. Beh, si vede che evidentemente non si stavano già simpatiche, evidentemente. No, pace, benissimo. Perché pure quando a un certo punto lei sarà vestita da Zorro e Amadeus gli dice: che fai, ti spogli? Lei dice: sai che ci sarebbe, sai che sorpresa, no? Cioè, nel senso, cioè alla fine lei no, dei travesti. Sì, no, poi lui gli dice proprio: allora che fai, ti spogli qua davanti a tutti? Ti spogli tutta? Lei ha detto sì, così poi c'è la sorpresa, no? Una cosa del genere. Cioè, lei comunque alla fine ce la fa l'ironia su se stessa, chiaramente. Sì, giustamente. Ma lì era diverso lo scambio di battute, ma Drusilla l'ha zerata praticamente la Zanicchi. E adesso un momento di raccoglimento, perché c'è un momento di raccoglimento che dovrebbe arrivare a momenti, perché sapete che poi ci sono a volte i computer che fanno la rotella. ma silenzio. Eccola. Simone, ascolta il testo che poi te lo spiego. Te lo spiego. Ma fregato. Non è lei. Non è lei. Cosa stai facendo, Simone? Stai a mettere le vibrazioni. Stai buono. State buoni tutti. C'era l'aria che ci. Aspettate, che adesso recuperiamo tutto. Perché è partita, ha detto che è partita. Allora, c'è ancora la mia vita piena di tante cose. Che era partita, poi se n'è andata, cioè capito qual è il problema. Come stai, bambina? Dove vai stasera? Che paura intorno, è la fine del mondo. Sopra la rovina sono una regina. Mamma, non so cosa salvare. Sono pezzi, già mi manchi, occhi dolci. dieci cuori infranti. Che spavento come il vento, questa terra sparirà nel silenzio della crisi generale. Ti saluto con amore. Però fa anche questa, fa molto ciao 2020, eh. Oh. Questa è l'ora della fine. Romperemo tutte le vetrine. Tocca a noi, non lo senti come un'onda arriverà. Me lo sento, esploderà, esploderà. La fine del mondo è una giostra perfetta. Mi scoppia nel cuore la voglia di festa. La fine del mondo. Comunque il testo parla della fine del mondo, sì. Ed è molto ispirato, penso, così visto la tempistica, che l'abbiano scritto vedendo Don't Look Up, no? Il film quello su... No. Voi l'avete visto? Look no, Up? Ancora no. No, no, non l'abbiamo visto, però mi sembra strano, perché, cioè, vuoi dire, avrebbero dovuto scriverla in due mesi sta canzone, cioè neanche. Boh, però ho trovato molte coincidenze tra il testo di questa canzone e il film di Don't Look Up sulla fine del mondo. E in effetti loro dicono: è la fine del mondo. Ciao ciao vuol dire proprio ciao a tutti, cioè sta finendo il mondo, ciao ciao. E lei è, ovviamente è in crisi, perché non si sa se festeggiare, sono tutti, si dice, cioè, si fa un casino perché si rompono le vetrine, c'è festa, però io sto male, eccetera, c'è il disagio sociale perché è la fine del mondo, insomma il concetto è questo. Beh, vabbè, forse l'approfondirò questa canzone, che tra l'altro... Che per noi è la vincitrice morale sì, di Sanremo. Abbiamo capito, hanno fatto anche il saluto col pugno, sì, diciamo, anche, sì, insomma, sì, cosa che ha fatto incazzare qualcuno. E... per noi doveva vincere assolutamente. Questo è la vibrazione. Chi è questo? Le vibrazioni. Vibrazioni, ok. Vibrazioni che ci hanno, l'unico pregio che ci hanno è che hanno portato Vissicchio a dirigere, gli unici. Che eravamo preoccupati poi. C'era un tempo per dare avere, c'è ancora la mia vita piena di tante cose. Ho imparato a stare bene nel mezzo sempre. Oggi penso a tutte le occasioni sprecate, alle giornate in strada tra tanta gente e a quella polvere che ho tolto piano dal mio cuore per salvare. Mia moglie dice che devo morire. No, niente. Che è successo? Ha segnato la Lazio? No, no, magari no. Gli chiedeva l'acqua, gli ha detto muori di sete. No, la Lazio la Lazio stava perdendo, poi mi sono pure dimenticato. Ah no, è finito il primo tempo. Quanto è finito il primo tempo? Boh, forse 1-0 per il 3-0 Milan. 3-0 per il Milan. Dove sta scritto? Mi è arrivato adesso il coso. Intervallo, Milan 3, Lazio 0. Madonna, che badosta. comunque le vibrazioni, no, no, era previsto questo. Un brano non degno di nota, hanno fatto di meglio. Io che li seguo e li conosco da quando ero ragazzina, insomma, posso dire che sono stati tempi in cui magari le vibrazioni erano abbastanza qualcuno, però non mi è piaciuto proprio sto brano. L'unica cosa bella è che c'era Beppe Vessicchio che praticamente ha diretto l'orchestra solo l'ultima sera. Ma mi sa che non ha diretto l'orchestra. L'ultima sera. Ha suonato al pianoforte. Ha suonato al pianoforte, c'è ragione. Però è stato presente solo l'ultima sera, perché è stato positivo per, sì, per tutte le serate del Sanremo. L'hanno chiamato per suonare al pianoforte con loro e non per dirigere l'orchestra, comunque sì. E lì c'erano anche i punti Beppe Vessicchio al Fanta Festival, sì. che se dirigeva il Beppe Vessicchio prende i più punti praticamente. E in pratica lì non l'ha presi quasi nessuno, perché ovviamente... Non so se li hanno dati alle vibrazioni, perché in realtà suonava al piano, però non lo so, bisogna vedere i punteggi che mi hanno... Mi sa di no comunque, mi sa che... Perché poi le vibrazioni non hanno preso tanti punti. In generale Diciamo che i musicisti più agguerriti erano Emma e Michele Bravi, tra questi, insomma. E sa, e pure Blanco. Blanco si è dato. Si è dato molto da fare. Ma fa, a far cosa, scusa? Col Fantasaremo. Ah, ok, ok. Vabbè, poi diventa un metagioco, no? Diventa il sì, gioco ma poi, nel gioco. Essendo lui un ragazzo così giovane, ha comunque una cerchia di fan che in qualche modo interagiscono molto, certo, con lui. Immagino, immagino. Beh, come ho scoperto che è Blanco, non lo sapevo, è qua. È di Brescia. Io, sì, vicino a dove abito io. Eccoli. E poi arriva, insomma, arriva la canzone vincitrice. Volare con te sono bici di diamante. Hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai. Anche se il sesso non è la via di fuga dal fondo. Dai, non scappare da qui, non lasciarmi così. Non tocco i brividi, a volte non si esprimermi. Già bastano loro, Michele. Io non sto cantando, eh. Ah, non eri tu? No, ah, no, io no, io. Vabbè, comunque posso dire una cosa. A me sta canzone non mi piace. Ma come non ti piace? Non mi piace. Ma dai, non mi piace, andiamo, ma soprattutto non mi piace lui. Mahmood, no, proprio a me non piace la canzone proprio. Allora, la canzone, no, non mi piace neanche a me la canzone. La canzone è bella. Vabbè, io devo dire che la canzone bella, è bella. È arrivata lei, la canzone è bella. E questa canzone ha un'importanza molto questo sono molto d'accordo simbolica. Infatti è importante che abbia vinto da questo punto perché di vista, perché comunque sono due artisti uomini che cantano una storia d'amore, ovviamente omosessuale, e pur no, loro non essendo omosessuali, ma questo non avrebbe cambiato niente in realtà, e quindi molto è importante da questo punto di vista. Sono molto contenta tutto sommato che andranno all'Eurofestival. Eurofestival che tra l'altro poi dovremmo anche dire chi presenta, perché sono stati presentati i presentatori che già si sapevano, ma in realtà dicevano di no, poi invece alla fine era sì, perché l'avevano già effetto annunciato sorpresa. Per sbaglio. Eh sì, ma in realtà poi ti hanno detto no, non sono loro, invece poi alla fine erano loro. Ma no, vedrai che non sono loro. Esatto. No, comunque, tornando alla gara. Vabbè, allora, innanzitutto diteli chi sono sti presentatori. I presentatori sono Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mica. Mica, esatto. Mica cavoli. Presenteranno l'Euro Song Vision Contest. Presenteranno in inglese. Vabbè, certo, quello per forza, insomma. Vabbè, d'altronde sono tutte e tre ben in grado, insomma. E sono tutte e tre Pausini, ben in grado anche di parlare francese, spagnolo e soprattutto anche italiano e israeliano. Ma israeliano solo Mica, penso. Sì. Ma poi neanche, perché lui è libanese, non è israeliano. Sì. Comunque a me questa canzone, questa devo canzone dire, non mi è piaciuta, non mi piace Mahmood come canta, molto. Però sono contento del fatto che abbia vinto. Ma e la ha dato canzone è molto bella, un'importanza, ragazzi, e un simbolo a questo Sanremo che ha voluto veramente avere questa impronta, diciamo, lasciare questa impronta, indipendentemente insomma dal fatto se poi avrà un futuro questa impronta, però è giusto insomma che incominciamo a vedere che il mondo è diverso, legata come vorrebbero quei quattro stronzi che alla fine stanno lì sempre a dire che non è vero perché Gesù poi si arrabbia, insomma. Infatti quei quattro stronzi hanno odiato il festival. Vabbè, pazienza. Comunque, il grande ritorno. La notte non finisce mai. L'America lontana di là dal mare, dove piove fortuna, dov'è libertà, e l'acqua è più pura di un canto. Ed è silenzio tra due la terra, un sogno Madonna altrove. Allora, è una morte sta canzone. Questo è l'altro vecchio insieme a Morandi. Sì. Come hai detto prima, la prima serata ha cannato completamente l'intonazione della canzone perché è partito troppo alto, poi la canzone andava su e lui non ce la faceva più a salire, praticamente ha sbagliato, poi ha stonato degli alti che ci sono dopo, però la sera dopo ha recuperato e l'ha cantata bene, ecco. Vabbè, comunque voi dice rispetto agli altri cantanti che c'erano non sapevano proprio cantare, cioè tre sere di lettera tempo. Al di là del mare, Massimo Ranieri, che diciamo che non ha più la canna della volta. Poi, no vabbè, ma diciamo, dai, anche. Vecchiato, cioè, dai, anche nella registrazione si sente più che tutta, non era Gianni Morandi e Iva Zanicchi tutta la però, vita. Però è Massimo Ranieri, cioè se Gianni Morandi ha fatto una canzone da Gianni Morandi, Massimo Ranieri ha fatto una canzone da Massimo Neri, che tra l'altro la canzone di per sé non è neanche brutta. No, cioè, no. Devo dire la verità, la canzone è sempre la solita. Però è sempre sì, insomma, diciamo che. E sentiamo quello dopo. Vai. Solo comunque avevo la canzone di Mahmood. Cosa ridi se mi fa male? Ah, questo è il TikToker. Il ragazzino che. Virale. Che è famoso su TikTok. Matteo Romano. Giuro un po' l'odio, mi spiace. Che mi sembrava mio nipote quando cantava. Mio nipote su TikTok. Ma poi, cioè, non è perché comunque sei diventato un influencer che oggi va a farite pure sta parola, no? Allora devi per forza diventare un artista, cioè come quelli che fanno il cinema, che diventano doppiatori, tutto loro fanno adesso, capito? Che è una cosa tipicamente italiana questa, poi, perché sì, probabilmente anche in America succede, ma in una maniera molto più contenuta, c'è un rispetto delle professionalità forse altrove che da noi non c'è, cioè nel senso che, e questo bisogna riconoscerlo, sta canzone non mi dice niente, lui non mi dice niente, non so a voi, insomma, poi. No, neanche a me, ma ci avrà 12 anni sto ragazzino, cioè, 15, no. Cos'è che ne ha? 15, ti ho detto, mi sembrava. Non è un motivo per. Ultimamente sono andata su TikTok e ho trovato mia nipote Matilde, neanche Aurora, Matilde, quindi quella più piccola. Che vai su TikTok. E mi sono messa paura. E quando ho visto questo ragazzino cantare e muoversi, ho visto mia nipote, cioè nel senso sono tutti 19 uguali. 19 anni, cioè 19. Ammazza. Anni. Beh, allora, se ragazzi. Sei pure un coglione, insomma, vabbè. Andiamo avanti. C'è come una ferita. Il cuore perde un colpo. Michele Bravi. Respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena. A me non è mai piaciuto. Un'occasione persa, sto ragazzo. Ma poi cantano tutti, cioè. Ma devo dire, lui arriva. Cioè, io non voglio fare le battute brutte che tu non vuoi. Sto infatti non la faccio, però. Non la fare. Non la faccio, però. Arriva comunque da un periodo molto buio, di una depressione molto importante. Quello è vero. E quindi fatto un incidente stradale, se non sbaglio. Mi sa che c'è scappato anche il morto. Insomma, una brutta storia. Questo mi dispiace, naturalmente. Aveva perso anche la voce, non riusciva più a parlare. Quindi, insomma, veramente una situazione difficile. E devo dire che, vabbè, la canzone non mi piace per niente, ma neanche lui. Come ha cantato, però io l'ho visto cantare ai suoi esordi quando arrivò a X Factor, sì, mi ricordo una che poi cover. Il ritornello della canzone non è manco brutto, no, cioè, no. Non è proprio il resto della canzone che non. Mi ricordo una cover di Sere Nere. Che di Cieli Neri, di una canzone di Morgan o di Blu Vertigo, bellissima. E lì ho detto: Madonna, sto ragazzo è bravissimo. Quindi mi sembra che abbia perso un po' di. Ma guarda che tutti. Vabbè, quelli già che il fatto che è ritornato da un periodo difficile, regà. Cioè, sì, no, quello va bene. Tanti non sopravvivono, cioè. Ti ricordi quella che aveva vinto X Factor, bravissima, com'è che si chiamava la cantante, quella che aveva una voce della Madonna, super brava, poi ha fatto anche 2 o 3 Sanremo, ma non se l'è cagata nessuno alla fine. Però era tecnicamente super brava a cantare, bravissima, adesso non mi ricordo non più mi il ricordo nome. Neanche il nome, però ho capito, sì. Hai capito? Sì. Quindi non vuol dire che essere tecnicamente bravi poi ti faccia automaticamente diventare un cantante famoso o è tutto un insieme di fattori, probabilmente, anzi senza probabilmente, sicuramente, che poi portano a diventare e a creare canzoni di successo piuttosto che no. Comunque io vi ho messo un link, praticamente ci stanno dei tipi che mi sono stati condivisi poco fa, che hanno rifatto tutte le canzoni di Sanremo in versione sigla del Game Boy. Cioè, quindi vabbè, stanotte mi chiudo. E vabbè, dai, poi ce la sentiamo. Sì, ho messo il link perché è veramente fantastica sta cosa. Ah, questa è la... questa è Noemi. Noemi. Bellissima Noemi, è stata anche su Sanremo. Bella voce, dai, parlarti, scusami perché ha fatto canzoni migliori. Cioè. Sì. Che non cambierà per te. Ti ricordi di me le notti a camminare, un po' stanchi e felici sulle strade romane. Forse avrei dovuto solo chiedermi se c'è una strada dove continuare senza te. So che è un po' da stupidi fare finta di niente, perché ad aspettare dei miracoli ci togliamo i secondi e non c'è. Vabbè, sì, dai, ragazzi, non è che... no, non se è uno che... si vuole soffermare, si sofferma magari su... E moce però c'è il tizio quello... che dicevo io, Arcomi. Cazzo di nome, Arcomi, veramente, cioè, senti parlare Michele, Simone, se lo senti parlare Arcomi, gli tiri una sberla. Sì, sì, no, ma l'ho sentito perché mi è capitato dall'altra parte. Sì, sì, sì, vabbè, ma pure come canta è uguale, cioè. Sì, vabbè. Quindi alla fine, cioè, se vai a vedere, insomma, Arcomi qua, cioè, ci fa venire proprio, però vediamo se il computer decide che parte, perché sai che insomma dipende sempre da pure se c'ha voglia. Potrei non aver cliccato, sapete, non mi sono accorto di non aver cliccato. Che però pare che sia stata molto apprezzata questa canzone. Pensate. L'amore per me ha elettricità, l'amore per me corrente, le lentiggini, uno ogni due sono come scalini che portano nell'Olimpo in un mantello di nuvole bianche. Cosa mi hai fatto? Autotune, autotune a tutto spiano. Tipo che tutte le sere andava in giro senza maglietta, proprio con i capezzoli di fuori, e cantava così. Non qualcuno che mi dica fermo, dalla canotta ai capezzoli. In un mantello di nuvole bianche, cosa mi hai fatto? L'amore per me ha lasso di tempo. Vabbè, ragazzi, vogliamo dire qualcosa su sto tipo? Io purtroppo non c'ho l'età. Da sto tipo da via alla sberle, tipo. E quindi non c'ho l'età. Passiamo al prossimo, che è San Giovanni. San Giovanni. San Giovanni è da tenere d'occhio. San sì. Giovanni. Farfalle. Da tenere d'occhio. Sentiamo. Anche se un po' piccola, sembra fatta per te. Oddio, che da ciao 2021 si dritto proprio. Ragazza copertina tutto. Come cantano i ragazzi di adesso. Però rispetto agli altri a più, se lo ascolti bene, ascolta tecnica, che sono da tutte le parti, girando gli angoli di questo mondo, non posso trovarmi in un luogo migliore se non tra le tue braccia, in mezzo a tutte le luci, noi siamo gli unici con le tapparelle chiuse. E non l'ho detto a nessuno che ho perso la testa, sono pazzo di te. Cioè, lo senti che canta come tutti i ragazzini. È arrivato quinto. Però se lo ascolti bene senti che c'è un po' più di manico. Sì. No, ma guarda che la canzone non è male. La canzone sembra anche carina, tutto sommato. È proprio questa moda, capito? E poi vabbè, se devi fare tutta la puntata così, cioè purtroppo c'è una generazione. Scusa, perché posso esprimere le mie opinioni? Ma c'è una generazione. Scusa, vai Carlo, scusa, di che c'ho ragione. Che Simone c'ha ragione, nel senso che è la modalità di cantare adesso che sta un po' su coglioni, però siamo anche vecchi, quindi questo non lo metto in discussione. Questa comunque, se ascolti, riesci a capire chi è capace. Sì, quello sì. Gli dai due sberle. Questo qua invece dici c'ha delle potenzialità, sicuramente qualcuno che secondo me continueremo a sentire nei prossimi anni. Tra l'altro era molto attesa la canzone di San Giovanni, ho visto nel backstage, nelle varie discussioni di Sanremo, quindi probabilmente è un cantante che si è fatto già notare, non so per quale motivo. Sì, sicuramente la sua fanbase. Tra l'altro, a proposito di fanbase, Ho visto che molti cantanti fanno i gruppi Telegram. Tananai? Sì, sì, è vero, sì, è vero. Fanno sì, i gruppi Telegram, tra l'altro non noi come siamo canali, cioè monodirezionali. No, no, ci parlano. Io ma proprio. E questa è una cosa positiva, comunque. La rappresentante di lista. La rappresentante sì, sto pure io là dentro. Pure io. Sto pure anche se non è che. E ci ha portato dentro Carlo Sant'Agostino. Esatto. Le ultime, esatto, le ultime due canzoni. Allora, Tananai è l'ultimo classificato di Sanremo. Ah, quindi merita. Che praticamente è esultato perché, perché è arrivato ultimo. Ultimo. Eh beh, mi dico, io c'è ragione, c'è ragione, c'è ragione. Sesso occasionale. La mia macchina distrutta. Ok, va bene che sono distratto. Quanto ti ho aspettato, ma tu no, no. Stavi cercando un tipo, qualcosa che non ho. Che poi io vorrei far notare una cosa. Ho fatto notare recentemente, non so, in un, in una puntata del Mattino all'Oro in podcast, che molte di queste canzoni di questi popari parlano tutte di sesso, di quanto so belle, quanto è bello il tanga da ragazza, de, oddio mi fa impazzire, capito? Tutte queste cose, cioè, nel senso, boh, abbiamo capito che state, cioè, comunque sono dell'età di mormoni, quindi sì, si muovono i mormoni. No, diciamo che se la, canta, comunque, se la cantano questa... pure più de che se la cantano più di quanto se la suonano, diciamo, come diciamo. Quello sì. Comunque questo Tananai, c'è una cosa da dire che sanno in pochi, perché Tananai è una parola in dialetto bresciano, perché il nonno di questo ragazzo era bresciano. Ok. E Tananai in bresciano vuol dire stupidotto, infatti lui si è chiamato Tananai, ma per me lui non sapeva, perché il nonno si ricorda, perché lui poi è diventato milanese, quindi ha perso poi i contatti, se n'è andato, il nonno era bresciano, ma il nonno gli continuava a dire va là Tananai, no? E lo continuava a chiamare Tananai, ma Tananai in bresciano vuol dire scemotto, stupidotto, cretino. Vabbè, magari lo sapeva, gli stava bene così, che ne sai? No, secondo me non lo sa, perché quando gli hanno chiesto il significato della parola lui ha detto mi chiamava sempre così mio nonno, allora mi è rimasto questa cosa qui Tananai e gli sono chiamato Tananai. Beh, comunque anche Tananai, è anche carino come... Quando dicono Tananai ridono, perché è come se uno si vede. Come ti chiami? Mi chiamo Cretinetti. Stupidotto. E poi c'è l'ultima canzone. C'è l'ultima canzone, che è l'uomo vestito col pigiama. Human. Che la Verilli, infatti, ha detto: ma tu sei venuto col pigiama, dato che è tardi, che cantavi per ultimo. Pigiama. Se l'ha detto la Ferilli, ha detto corpigiama. Corpigiama. Da tutta curve, tra il cuore e curve. Il tanga ancora senza mappe, scorciatoie, un'area di sosta e perdersi io lo so bene, basta niente come in mare, ma quando stavo per arrendermi mi ha insegnato a respirare. Vabbè, io direi che non c'è molto altro da dire, no, Michela? Diciamo che ci siamo divertiti molto più a seguire Sanremo che sì, ascoltare sì, le canzoni. Ma secondo me, secondo me il ballo, io non lo seguo, devo dire, un po' lo seguo di riflesso con Michela, ma so anni proprio, perché non c'ho neanche questa curiosità social di vedere che succede. Però sì, secondo me il bello di Sanremo, secondo me, è quello, no? Il giocarci intorno, sì, sì. E ascoltare quello che è, vedere i Twitter, seguire un po' anche i pettegolezzi, le battute della gente. Sì, assolutamente. Quindi che condensato vuoi fare, Michela? No, tra l'altro volevo intanto dare, a parte i primi, la classifica che ha visto Mahmood, Elisa e Morandi. I restanti premi sono stati premio della critica Mia Martini a Massimo Ranieri. Boh, vabbè, dai, quello è l'atto dovuto. Premio quasi della sala stampa della radio web Lucio Dalla a Gianni Morandi. E premio a miglior testo a Fabrizio Moro con Sei tu. Vabbè. E premio a miglior arrangiamento Elisa. Ma ha vinto Elisa. No, Elisa è premio dell'orchestra, sì, l'orchestra. Miglior arrangiamento. Dato. Vabbè, sì. Lì non è che l'orchestra quest'anno mi sa che non aveva molte scelte. Sì. Alla fine. Tra l'altro l'orchestra stessa è stata coinvolta nel Fantasanremo perché se salutavi gli occhiali... l'orchestra prendevi punti, se sì. Regalavi, oppure quello degli occhiali scuri là, gli occhiali, occhiali scuri perdevi punti, perdevi punti se mettevi gli occhiali da sole. E infatti gliel'ha fatti mettere tutta l'orchestra, cosa, quello che cantava, come si chiama, non me, adesso non mi vabbè, viene, vabbè, uno di questi, insomma, e quello che come si balla fottitene, ha fatto, ah, quello tipo Tricarico, ha fatto mettere gli occhiali, esatto, da sole a tutta l'orchestra, e penso che abbiamo perso tutti tantissimi punti, e però va bene lo stesso, insomma, io poi non ci ho capito più la, niente Dargen Amico. E infatti la prossimo anno studierò un po' di più il Fantasaremo, perché mi sono iscritta all'ultimo perché voglio farlo anch'io, però poi ci ho capito niente, insomma, quindi sono andata un po' a casaccio. Ad ogni modo, io ho amato questo festival, sinceramente mi ha portato, ti è piaciuto, una settimana di frivolezze, di gioia, e tutto sommato mi è piaciuto molto. Bene, Carlo, invece il tuo condensato, il tuo riassunto finale. Ma allora, Sanremo è sempre bello perché Sanremo, perché Sanremo è Sanremo, perché Sanremo è Sanremo, giustamente. Un po' per il gossip, un po'. Allora, devo dire una cosa, sicuramente questo è il terzo Sanremo di Amadeus e forse fine, neanche l'ultimo. Ancora? Basta. Forse, però diciamo che in generale non giudico male la sua direzione artistica, sicuramente non avrei fatto delle scelte, non sei sempre d'accordo ovviamente sulle cose per forza, mm-hmm, perché de gustibus, però la cosa che ho apprezzato della sua gestione rispetto alle precedenti è che lui ha detto chiaramente, ha fatto capire, Festival della Canzone Italiana è la canzone italiana, punto. Ci sono anche negli ospiti, nei super ospiti, comunque nelle serate eccetera, ha sempre sempre premiato la canzone italiana. Se voi tornate indietro negli anni, Sanremo era anche una vetrina per il pop internazionale, no? Ci trovai sempre i cantanti che erano primi in classifica in tutto il mondo, che venivano ospiti a Sanremo, il super ospite che magari alla fine magari anche oscurava un po' il concetto di Sanremo. Invece se guardate i festival di Amadeus, e questo ultimo non ha fatto eccezione, i super ospiti sono cantanti italiani, mm, magari internazionali, ma italiani, ed è sempre molto all'attenzione sulla canzone italiana e sulla canzone. Poi ci sono gli intermezzi, le scenette, vabbè, quelle ci sono, ne frega un cazzo, spezzo salto quelle robe lì, perché poi ci sono i Ferilli Gate e le cose cagose piuttosto che belle, piuttosto che brutte, come è stato raccontato, ma non si può negare che sia stata data attenzione alla musica italiana. Ci sono dei vecchi festival dove non te ne ricordi neanche le canzoni che sono passate a Sanremo, sono volate via subito. Invece di solito in questi festival qualcosa c'è, anche se nell'ultimo, come ho detto, quest'ultimo la qualità media è stata più bassa dei precedenti, però ci sono cose come i rappresentanti di lista che hanno un po' scompigliato la situazione, sono un po' gli outsider, quelli che non se li aspettava nessuno, e adesso stanno avendo quasi più successo di tutti gli altri. Sì, vabbè. Anche se non mi piace. Come spesso succede a Sanremo, poi, questa cosa, tutto sommato. Sì, anche c'è questo. L'anno scorso, per esempio, erano con la Pesce di Martino, che nessuno si aspettava, e poi dopo la canzone ha avuto un successo. Quest'anno non c'erano. No. No, non c'erano. Meno male, meno male. Ricordiamo, noi ce lo diciamo sempre, io e Michela, che con la Pesce di Martino noi li mettemmo al tempo di tutto un podcast una decina d'anni fa, perché loro erano su Giamendo. Allora, no, non erano su Giamendo, però erano praticamente amici emergenti, emergenti, esatto, e suggeriti amici di Ciccio Reddia, esatto, che salutiamo Ciccio. Sprologio Cast, esatto, sì. E devo dire, insomma, che di tutti quanti gli altri podcast hai fatto, sì. Di tutto un podcast è stato il primo in assoluto. Ma Sprologio Cast è la prima. No, quello non l'ho mai fatto, non era mio, era di questo tizio, Sprologio Cast, di Ciccio Reddia, che insomma poi alla fine entrò in IPN per un periodo di tempo e ci fece conoscere questi artisti. Ma devo dire che in di tutto un podcast in diversi anni tre o quattro artisti, insomma, che ancora non conoscevo nessuno, che poi magari sono emersi, li abbiamo passati, quindi sì, noi siamo, alla fine abbiamo scoperto cose, noi siamo praticamente Pippo Baudo del podcast italiano. In realtà era Michela che sceglieva le canzoni, così come quindi anche io oggi sono il Pippo Baudo del podcast italiano. Pippa Bauda. E quindi no, comunque, vabbè, dai. Pagare in Baudi è stata un'esperienza. Ti è piaciuto, sì, ti è piaciuto, sì, sì, veramente. Veramente. Sono contento perché. Allora, ragazzi, io devo dire, sono molto contenta di aver fatto questo excursus su Sanremo. E ovviamente, Carlo, ci vediamo. Road to Eurovision. Ci vediamo all'Eurovision. Sì, adesso organizziamo della serie di puntate che ci porterà all'Eurovision. Ma questa, okay, questa è la prima puntata. Quante ne faremo? Esatto, quante ne faremo? Sì, si vedrà, perché adesso magari andiamo un po' a studiare quello che succede all'estero in virtù del fatto che comunque c'è da raccontare di roba. Sì, non abbiamo detto niente di San Marino che avevamo detto. Vabbè, no, allora diciamolo, no, oppure ce lo lasciamo, ce lo teniamo per la prossima puntata, se no ce la studiamo. Succede, vediamo quello che succede. Sì, anche perché non hanno ancora deciso. Okay. Esatto. Cosa infatti, succede. Io direi che ce la teniamo per la prossima puntata. Quindi, va bene, ragazzi, io vi ricordo che domani sera alle ore 21:30 su runtimeradio.it torna Quando Eravamo Futuro. Abbiamo saltato una settimana, come sapete, ogni tanto capita. E vi portiamo al cinema, ma non a vedere i film, nel senso parlare di film, di colonne sonore, ma proprio vi portiamo fisicamente al cinema alla fine degli anni 70, inizio anni 80. Facciamo insomma 1981, No, yeah, perché erano troppo scomode le sedie. Ma è proprio quello. Ed è proprio quella la cosa interessante, perché andare al cinema 30 anni fa era un'esperienza, 40 anni, 30 anni fa era un'esperienza sicuramente diversa da quella anche... che. Ma sì, poi io me le ricordo, sì, le poi dipende, di legno. Sì, ma poi dipende anche dalle varie realtà, no? Perché ci sono alcune realtà che sono cambiate prima, alcune sono cambiate dopo. Il cinema al mare aveva le sedie di legno fino a 10 anni fa. Esatto, esatto. Ma anche quelle di parrocchia, o magari quello in alcuni paesi ancora, roba del genere. Comunque, andare al cinema era un'esperienza diversa. Ve la racconteremo, vi racconteremo che cos'era andare al cinema all'epoca, ma soprattutto faremo anche un raffronto con quello che è le differenze rispetto al cinema di oggi, che so. Sembra ma c'era l'Arcadia una volta. C'era l'Arcadia. Ma Carlo, c'è già da un bel po' di anni, devo dire. Sì, ma non credo che c'era negli anni 80, insomma. No, però all'inizio degli anni 90. Esatto. Parecchi anni fa. Bene, e invece domani mattina torno io con Buongiorno un cazzo dalle 7 alle 8 live per aprirvi la giornata, e poi ci sarà anche la puntata di Walter Sbano dalle 20 alle 20:30 con il suo Le Orazioni della Sera. Per il resto, insomma, vi ricordo anche che ci sarà un'altra puntata speciale di Sanremo di MDB Summer Radio di Alex Raccuglia, anche se non è chiaro, insomma, quando sarà disponibile, ma sarà disponibile solo in podcast, poi noi probabilmente la streameremo anche una sera di queste. E detto questo, io direi che venerdì sera alle 11, quindi alle 23, e torniamo anche con Runtime by Night. Detto questo, insomma, io domani penso domani sera Le Orazioni della Sera. L'ho detto. L'ho detto. E vabbè, niente, Michela. Grazie perché comunque questo viaggio verso l'Eurovision ci piace molto. Meno male, sono contento perché guarda, eravamo preoccupati. Il problema è che non ci sarà un posto dove andare a vedere l'Eurovision, perché non ci sono posti. Lo so, dovevamo organizzarci, no, ragazzi. Ma io ho cercato di organizzarmi, ma guarda che i prezzi stanno alle stelle. Secondo me, se uno io potrei andare a dormire dalla mia amica, ma non penso in qualche maniera si organizza magari tramite qualche credito, qualcosa, secondo me, insomma, qualcosa. Vabbè, questo lo devi fare tu, insomma. Lo devi sapere te, se può fare. Vabbè, dai, mo ci proviamo, vediamo un attimo, ma poi che ce ne frega a noi in realtà, poi anche ad andarci lì direttamente. No, ma infatti poi lo commenteremo. Si vede meglio dalla televisione, sì. Giusto andare fuori a intervistare qualcuno, ecco, cioè proprio per tornare ai bei vecchi tempi quando facevamo quelle cose d'inchiesta, insomma. Ancora, allora Lilith non ha capito Runtime by Night ci sarà venerdì sera alle 23, come sempre, su www.runtimeradio.it. comunque, non è ancora l'epoca storica di andare a buttarsi a fare interviste in mezzo a litare addosso alla gente, dici. Sì. No, eppure l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che è tutto a posto, tutto a posto, andate a lavorare, zitti e mosca. Sì. Va bene, va bene, grazie Carlo. Michela, ciao, grazie Carlo. grazie a tutti. Bella puntata. Ciao ciao. Divertente. Mi raccomando, ciao, ciao. Torneremo un'altra puntata con... Ma ciao, nel frattempo ciao. La Lazio che ha fatto? La Lazio sta a peschiaffi. Non neanche, guarda, non c'ho neanche il coraggio di tirare su lo schermetto qua. C'ho paura. E vabbè, faremo un'altra puntata dove poi loro parleranno sopra le canzoni. Insomma, bene. Ciao ragazzi, buonanotte ciao. A tutti. Ciao a tutti. Ciao ciao.